spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Rieccoci, il 26 agosto, sono le 8:13, due coordinate, dunque chi si è svegliato da poco sta per prendere inizio una trasmissione di spunti di vista in cui vi mobiliteremo. Sì, perché ci è stato detto che la scuola, per esempio, non è un problema corporativo di chi ci lavora, di chi ha i figli che la frequentano in età scolare, ma richiede la mobilitazione sociale. Allora noi prenderemo alla lettera il ministro Stefania Giannini, che ieri dal meeting di Rimini ha illustrato il suo disegno sulla scuola di domani. Perché dal meeting di Rimini, questo non ve lo so dire, io non so. Sarò all'antica, non riesco a capire perché certi annunci non si facciano nelle sedi istituzionali. Comunque, a parte questo, vi mobilitiamo, nel senso che la riforma la facciamo fare a voi. Cioè, perché? Visto che partiranno le email, ha dichiarato Renzi, le consultazioni dopo la presentazione del 29 agosto di questa riforma nel mondo dell'istruzione, ci saranno queste consultazioni ex post, cioè dopo che saranno state annunciate queste direzioni da prendere. Allora noi la facciamo ex ante, cioè vogliamo chiedervi, prima ancora che venga annunciato, se voi poteste fare un intervento, solo uno a testa, nel mondo della scuola, e potete scegliere anche l'ordinamento e il grado: scuola materna, elementari, superiori, università, medie, sbizzarritevi, non ha importanza. Cosa fareste? Forse qualcosa che è stato delineato, portare a 4 anni il ciclo delle medie superiori, per esempio, è una delle proposte annunciate. Nella didattica, ci è stato detto, ci saranno inglese e informatica dalle elementari, e questo per una modernizzazione delle competenze dei ragazzi. Ricordate che era stata eliminata la geografia dagli istituti tecnici, quasi che il TomTom, il navigatore che ormai usiamo tutti, l'avesse resa un po' superflua? Ebbene, sarà reintrodotta storia e geografia negli istituti tecnici, e poi un omaggio anche al patrimonio culturale di cui siamo rappresentanti nel mondo. Ci saranno più ore di storia dell'arte e più ore di musica. Questo per quel che riguarda la didattica. Ci saranno poi cambiamenti per quel che riguarda non solo l'inquadramento, ma l'apprezzamento dei professori e le qualifiche richieste al corpo insegnante, nel senso che dovrebbero essere richieste ore di formazione maggiori, e soprattutto per incentivare la motivazione anche gli stipendi degli insegnanti dovrebbero essere, uso sempre il condizionale perché naturalmente finché non vedremo poi attuato tutto questo, è chiaro che il condizionale va utilizzato, anche se sono direttive, diciamo così, apprezzate da tutti coloro che l'hanno sentito. Cioè la valutazione dei professori e il salario relativo ai professori, visto che la classe insegnante italiana è tra le meno pagate in Europa, sarà calibrato alle competenze, dunque al merito, e non solo agli scatti di anzianità come è stato fatto finora. Cioè gli scatti di anzianità saranno in qualche modo ridimensionati, mentre la formazione permanente diventerà obbligatoria, così da dare degli incentivi ai docenti che, su base volontaria, per ora noi sappiamo questo, offrono disponibilità oraria e dimostrano delle attitudini. Ma al di là dell'aspetto sindacale, diciamo così, o di inquadramento degli insegnanti, se voi poteste introdurre una materia o eliminarne un'altra, o introdurre un principio, un elemento in questa scuola che sempre ci nominate quando tocchiamo tematiche legate anche all'educazione civica, dovrebbe essere insegnata a scuola, è uno dei mantra dei nostri ascoltatori, giustamente. Qual è l'elemento che introdurreste? Potete dircelo e partecipare alla discussione che scatterà dalle 9 su questo tema fondamentale, non solo del presente ma del futuro italiano. 800 24 0024 è il numero da segnare. Visti da fuori. E andremo tra pochissimo anche a conoscere il nostro corrispondente. Prima però il tema delle 8:30 partirà da una vicenda di cronaca orribile che ha portato alla morte di una donna in una villetta romana, l'avete sentito qualche giorno fa. Questa donna era una colf o badante, che dir si voglia, e come sapete i dati ci raccontano che l'Italia invecchia, indipendentemente dalla crisi economica, invecchia comunque. Anche su questo fronte lo Stato latita, le famiglie hanno bisogno di assistenza per gli anziani non autosufficienti, e l'ultimo anello di questa catena sono appunto le collaboratrici domestiche o badanti, che costituiscono quel pezzo di quel welfare mancante di cui non si fa carico lo Stato in Italia. E quindi questa parola quasi intraducibile altrove, cioè badante, sapete quante sono in Italia? 1,5 milioni, ricoprono questa funzione, e questo testimonia già questa cifra, non solo il fatto che l'economia dipende da questo segmento corposo dell'immigrazione, del lavoro dipendente. Ma chi è la badante? Perché è una figura così vicina a ogni famiglia che la impegna, però in realtà è lontana nei termini della conoscenza, cioè forse abbiamo una conoscenza approssimativa di queste donne che vanno all'estero per sostenere la famiglia, ma la cui scelta inevitabilmente ha delle conseguenze sulla loro di famiglia, anzi sta creando uno strazio nei paesi d'origine che ha conseguenze tragiche. In occasione della 20ª giornata della famiglia è stato lanciato un allarme, per esempio nella sola Romania l'anno scorso sono 40 i bambini che si sono tolti la vita a causa dell'assenza della madre. Si chiamano orfani bianchi, sono milioni in tutto il mondo, 350.000 solo in Romania. Interi villaggi in cui mancano le mamme e questi bambini dai 2 ai 6 anni che hanno delle conseguenze sulla personalità, sulla crescita, sullo sviluppo, diciamo così, armonioso, al di là dei soldi che la mamma riesce a mandare a casa, è piuttosto significativa, al punto che negli altri paesi, Romania, Ucraina, sono delle piaghe sociali molto note che hanno dei nomi molto tristi per noi italiani. Per esempio si chiamano sindrome Italia, questo tipo di disagi che si creano in una vasta parte della popolazione e di cui parleremo però dalle 8:30. Intanto Chris Ward-Jones, hi, welcome back. Thank you, grazie a tutti. Chris Ward-Jones è il nostro particolarissimo corrispondente di oggi. Perché particolarissimo? Ve l'avevamo annunciato ieri. Noi qui diamo la voce a coloro che raccontano con gli articoli o con le corrispondenze radiofoniche o televisive l'Italia al mondo. Chris Ward-Jones lo fa in un altro modo, perché lui usa la macchina fotografica, è un fotoreporter freelance, ha lavorato tra le altre testate per il New York Times, Daily Telegraph, Elle, Vanity Fair, Corriere della Sera. Scusami Chris, se sto dimenticando qualcosa aggiungi pure tu. No, sono tanti ma va bene così. È chiaro che la tua passione è nata nella camera oscura prima del digitale, o sbaglio? Assolutamente sì, già ai 14 anni mi comprai il primo ingranditore e per 25 anni ho lavorato tantissimo in camera oscura. Mi manca molto, però ormai è una cosa del passato, purtroppo. Beh, ogni tanto la frequenti ancora per qualche lavoro particolare, immagino. Devo dire di no, ho tutto il materiale qui in casa, però è tutto in scatolato, forse tra qualche anno, quando smetterò di lavorare per i giornali, mi dovrò ancora da fare in camera oscura. Lui è riuscito, Chris, a raccontare l'Italia così, con uno scatto. Io, solo per citarne alcuni di quelli che più mi hanno colpito sul tuo sito, che è frequentatissimo: il terremoto dell'Aquila, le celebrazioni dei mondiali, i vicoli di Palermo, ricordo anche perfino i ritratti delle campionesse di pallavolo e poi i ritratti di Benigni, di Zeffirelli. Ma mi ha colpito molto, forse perché legato all'attualità degli ultimi giorni, la tua visione del immigrant camp, come l'hai chiamato. L'hai scattata a Lampedusa? Sì. Questo era il CIA, il centro di identificazione ed espulsione a Ponte Galeria, vicino a Fiumicino, a Roma. È una foto che racconta tutto. Io chiaramente non sono in grado di raccontare una foto per radio e sono molti gli ascoltatori che ci chiedono dove trovarle. Naturalmente si trovano sul tuo sito, ma se tu dovessi scattare una foto oggi dell'Italia, qual è il sito che andresti a a ritrarre? Ma ci sono tante fotografie che potrebbero raccontare l'Italia. Lei giustamente ha parlato di questa foto del Immigrant Camp, come l'ho chiamato sul sito. È una foto in bianco e nero, devo dire, perché amo ancora trasferire, perché ormai le foto si fanno a colori, però poi al computer si può scegliere se lasciarle a colori o trasferirle in bianco e nero. Questo aveva un impatto particolare perché sembra veramente una prigione. Non è una prigione, è un centro di espulsione di immigrati che non hanno il permesso di stare qui in Italia, però ci passano anche parecchio tempo ed è stata un'esperienza, una giornata diciamo molto difficile per me, perché è un posto dove nessuno vorrebbe stare, non è affatto accogliente. E sembra veramente una galera, e sono stato in galera non come detenuto ma per fotografare. Sono stato varie volte in galera, avevo la stessa impressione, questa gente dietro le sbarre che non aveva speranze. Chris, poi parleremo di altri aspetti della tua fotografia, perché nei reportage dall'Italia tu secondo me hai la capacità più di altri di soffermarti su elementi come il cibo, la tradizione, le statuine dei presepi di Napoli e raccontare nel piccolo tutta una serie di emozioni, intrecci, cultura. Ma soffermiamoci un attimo sull'utilizzo della foto da fotoreporter, perché in questi giorni naturalmente abbiamo visto immagini che hanno attraversato il mondo e che non le hai scattate tu, è vero, ma raccontano stragi, raccontano addirittura decapitazioni. E vorrei chiederti, prima di passare all'analisi del tuo lavoro, se tu ritieni che queste immagini nel giornalismo internazionale siano necessarie. È una tematica che devo immagino che voi quando fotoreporter vi ponete spesso. Sì, certo. Devo dire che quando ho la possibilità online sui vari siti dei giornali di vedere un filmato che ritrae queste cose atroci, non ci vado. Preferisco non andare su queste cose, perché io trovo che ci sia un'attrazione morbosa per le cose atroci e violente, come per esempio quando c'è un incidente per strada la gente rallenta per guardare cosa è successo. È una forma di rischio non rischio, la gente vuole vedere, però sapendo che non entra in quella realtà. Una cioè forma di curiosità che però non ti impegna, tu dici. Ma non è un po' una negazione del tuo lavoro e del lavoro dei tuoi colleghi? Se l'immagine non è necessaria per conoscere una realtà, perché molti che le fanno circolare poi le pubblicano, dicono è assolutamente indispensabile per il diritto all'informazione del pubblico. Questo senz'altro sì, poi ogni fotografo decide in che ramo della fotografia impegnarsi. Io non faccio il fotografo di guerra, sono stato in una guerra, nella guerra civile in Albania, e ho capito che non faceva per me, non perché non volevo rischiare, anzi ho rischiato fin troppo, perché mi sono ritrovato con una pistola alla nuca, ma mi sono detto che forse il conflitto di per sé, fotografare il conflitto non è una cosa per me, e preferisco fare un ritratto di un personaggio, parlargli, capire chi è, come è arrivato al punto di ricevere un Nobel o di vincere un premio importante, per capire la sua strada culturale. A me è sempre piaciuta di più. Ti intriga di più. Esatto, sì. Mi piace la gente, per cui veder morire la gente è una cosa che non voglio fare, però devo dire che ci sono i fotografi di guerra che appunto si specializzano in queste cose, e non tolgo nulla, nessun merito a loro, nel senso che hanno scelto di vivere rischiando e purtroppo non sempre riuscendo a tornare a casa però. Tu hai fotografato tantissimi, tra i tuoi ritratti c'è una sovrarappresentazione di registi. Sì, ho fatto una serie di registi per lo più italiani, e devo dire è un lavoro molto interessante. E racconto, non lo so, Benigni per esempio, che è sempre un personaggio, anche nel privato non la smette mai di scherzare, di atteggiarsi, è una persona anche abbastanza facile da fotografare perché non gli si deve dire nulla. Invece un altro personaggio, per esempio Liliana Cavagni, molto difficile da fotografare, molto schiva, e infatti ha cercato fino all'ultimo di evitare, e io però poi mi sono presentato a casa sua e lei mi ha detto: ma come, non avevamo preso un impegno preciso? Ho detto: ma sì, signora, ma mi aveva invitato per quest'ora, eccomi qua. E alla fine invece è andato bene. Rosi, Zeffirelli, ne vediamo molti. Ma ti è mai capitato Bertolucci, per esempio, che sì, tu hai ritratto con il pugno sotto il mento, ma in aria quasi di sfida? Ti è mai capitato di avere in mente, prima di partire per la realizzazione di un servizio, una certa fotografia e di cambiare completamente la tua idea di fotografia chiacchierando, incontrando davvero quel personaggio su cui ti eri fatto un'idea? È sempre molto pericoloso farsi un'idea prima, perché poi alla fine la realtà non è quella, perché uno può leggere di queste persone e farsi un'idea, però poi la persona che si incontra è sempre diversa, e questo è il bello di fotografare le persone, anche perché è chiaro, come diceva anche Pirandello, ognuno è una persona diversa a seconda delle circostanze in cui si trova, per cui io magari, essendo un certo tipo di persona, incontro uno di questi personaggi e ho un rapporto con quella persona tutto mio. Poi magari lei va a intervistare la stessa persona e trova che sia molto diversa. I tortellini di Modena, chi te li aveva chiesti? Perché hai dovuto fotografare i tortellini? Allora, ero sì, a Modena a fotografare le Resdore, che sono delle signore che i ristoranti usano per fare la pasta all'uovo in giornata, e queste donne, tutte anziane, fanno il giro dei ristoranti facendo la pasta all'uovo. È stata una rivista svedese, devo dire che gli svedesi non solo si interessano moltissimo alle cose culturali, specie italiane, ma pagano anche benissimo, uno dei pochi paesi ancora che apprezza moltissimo la fotografia e la remunera in modo giusto. E sei riuscito a instillare poesia perfino nei culatelli, cioè i tuoi ritratti di culatelli, questi da chi ti erano stati chiesti? Allora, i culatelli, sono stato 3 giorni a fotografare i culatelli, non facile, perché i culatelli non parlano, anche se hanno un loro carattere, e il culatello è buonissimo, devo dire. E mi aveva commissionato la rivista Forbes, americana, Forbes. Che è una rivista di cose di lusso, Ford Life, e mi hanno chiesto appunto di fotografare questo culatello che è la produzione, e ho scoperto che addirittura il principe Carlo d'Inghilterra, rimasto colpito da com'era buono questo culatello, ha chiesto a una ditta di insegnargli come fare, perché anche lui ha dei maiali in Inghilterra, e gli hanno detto: no, sì, non sì, può. Pensare, lei sì, deve portare i maiali qui, perché solo pensava, qui certo, può essere fatto che con un corso di 12 ore riproduci il prosciutto italiano, è chiaro. Esatto. E noi oggi parleremo di scuola, ti lascio con un'ultima domanda. Tu organizzi workshop sulla fotografia di viaggio, su aspetti particolari della fotografia. Tu ritieni che la fotografia dovrebbe essere insegnata a scuola come arte espressiva? Io molti anni fa ho insegnato in un liceo, ho insegnato fotografia, però non era una materia, diciamo, accademica, dove alla fine c'era un esame, ma in Inghilterra questo si può fare. Secondo me tutte le materie, sia accademiche che un po' più artistiche, dovrebbero essere insegnate, o ci dovrebbe essere la possibilità di seguire questi corsi, anche perché non tutti siamo dei matematici o dei filosofi o degli scrittori. Ci può essere una persona che è più più curiosa a fare questo tipo di materia e chissà dove poi può arrivare. Grazie a Chris Ward-Jones, fotoreporter freelance inglese. Arrivederci, naturalmente, buon lavoro. Racconta l'Italia in maniera impareggiabile per il New York Times, The Daily Telegraph, il Corriere della Sera, Vanity Fair, ma tantissime testate internazionali, e lo fa attraverso l'obiettivo. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Riassumo tutto, tutte le richieste che avete mandato al 349-238-6666. Innanzitutto buongiorno, Irene Zerbini al microfono, questo è Spunti di Vista. Il nome del fotografo Chris Ward, scritto Ward, proprio come ve lo dico, ma col W, con la W, lineetta Jones. Quindi cercatele queste foto, perché come si fa a rendere una foto per radio? Dunque, grazie a Denza che ci ha richiesto delle precisazioni. Marcello, quella è una domanda oscena, come faccio a rispondere? Non posso adesso soffermarmi su quale macchina fotografica usa, cosa meglio utilizzare in fotografia. E grazie a tutti quelli che già stanno scrivendo sulla tematica scuola. Oggi infatti vi chiederemo, facciamola questa riforma della scuola, la materia di insegnare prima di tutto Decision Science. Questo è Pino da Perugia che ci dice: come si costruisce un pensiero logico? Questo va insegnato a scuola. È molto interessante questo stimolo. Tantissimi ci segnalano poi la lingua inglese, e chissà perché così tanti, come Stefano, si soffermano sull'educazione civica. E c'è anche chi ci indica la mancanza di risoluzione dei problemi. Questa dovrebbe essere una materia molto vasta, però sicuramente utile. Meno materie invece, dice Fabrizio, meno materie, semplicemente parlare, imparare a parlare e a scrivere, e toglierne un po' di queste materie. Educazione civica per ora è la più gettonata. Altri suggeriscono vedere cosa serve nel mondo e poi capire di conseguenza. Altri parlano invece del calendario, vacanze come in Germania, 3 mesi in estate sono troppo. Moltissimo grazie Antonio per averci scritto. Moltissimi poi sottolineano l'inserimento nel mondo del lavoro durante la scuola. Da Mantova ci dicono che bisogna introdurre il teatro e la storia del teatro, musica inglese, sport vero, ma già dall'asilo. E scusate, ma sto scorrendo su e giù e vedo tante segnalazioni su educazione civica, quindi non sto a ripeterle. L'abbiamo detto, 349-238-6666. Rispetto per le donne, questa va segnalata, arriva da Salerno. Ivana, grazie per avercelo detto. Non è una cosa banale, ma sono tutti temi che affronteremo dalle 9 e vedremo anche come insegnarle queste materie. Ora noi apriamo una pagina piuttosto, anche questa, poco letta, poco scritta. Mancano i dati in Italia su quello che è un segmento del welfare che è stato affidato de facto alle famiglie e vede impiegato 1,5 milioni di lavoratrici. Ebbene, le badanti hanno ritmi di lavoro molto sostenuti. Se ne parla ogni tanto di badanti semplicemente perché qualcuna è riuscita a sposare l'italiano, piuttosto che, come in quella vicenda, non si possono trovare aggettivi per descriverla, naturalmente, terribile, di qualche giorno fa, una vicenda di cronaca che ha portato alla morte di una di queste lavoratrici in una villetta romana. Qual è la differenza tra colf e badante? Ora noi non vogliamo entrare tanto nel merito sindacale, ma in generale le badanti intervistate da un questionario dell'ACLI, perché mancano i dati, hanno dichiarato di lavorare 60 ore o più, almeno il 35% alla settimana. Il 65% del campione fa un numero di ore superiore al massimo previsto dal contratto nazionale e in genere coabitano e guadagnano 850 euro al mese, questa cifra si è ridotta in tempi di crisi intorno agli 800, mentre se abitano fuori, cioè se la sera poi tornano a casa, guadagnano in media 700 euro. Questi alcuni dei dati snocciolati così, che non raccontano però qual è la situazione vera di queste donne. Sono in prevalenza donne, 94%, naturalmente la cura della persona è una mansione svolta anche da uomini in pochissimi casi in Italia. Ma per fare una fotografia accurata di questo atipico rapporto di lavoro, ringrazio e saluto Anna Rita Calabrò, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Sociologa e direttrice del Master di primo livello in immigrazione e genere, modelli familiari e strategie di integrazione, dove? All'Università di Pavia. Un tema molto interessante, perché quando si pensa alla famiglia si pensa sempre soltanto alla nostra di famiglia, ma ci sono anche le famiglie di coloro che lavorano per le famiglie italiane e, dicevamo all'apertura di trasmissione, ci sono delle realtà poco fotografate in cui ormai 350.000 bambini solo in Romania, milioni di bambini in Cina per esempio, sono costretti a vivere in famiglie in cui mancano le mamme quando non entrambi i genitori, e questo sta provocando dei disagi sociali alle porte di casa nostra terribili. Si parla di orfani bianchi, dottoressa Calabrò? Si parla di orfani bianchi, si parla di sindrome Italia, questo è un termine che hanno messo a punto due psichiatri ucraini, tenendo conto che le donne ucraine che lavorano in Italia sono un numero considerevole, per indicare proprio il disagio, anche in termini psichiatrici, che le donne che vengono a lavorare nel nostro paese e che invece abbandonano le loro famiglie nel paese d'origine sopportano in qualche modo in termini psicologici, perché i costi sono altissimi, i costi affettivi, nel senso che il paradosso è che noi a queste persone, io faccio fatica a chiamarle badanti, perché badanti è veramente un termine che in qualche modo non valorizza la professionalità di queste persone e in qualche modo offende anche le persone di cui loro si prendono cura. Diciamo delle collaboratrici domestiche per attività di cura e di assistenza, che è un termine un po' lungo, però come dire più appropriato. Ecco, queste persone di fatto viene richiesta delle prestazioni di alta professionalità, cioè devono essere infermiere, devono appunto assistere persone molto spesso invalide, ma anche, come dire, delle prestazioni affettive, nel senso che gli si chiede non soltanto di essere delle infermiere, delle cuoche, delle assistenti, ma anche delle persone che affettivamente riescono a dare degli anziani spesso lasciati soli dalle proprie famiglie affetto e assistenza in termini appunto amorosi, letteralmente. E questo crea ovviamente delle grosse contraddizioni, perché si dà a altre famiglie ciò che non si riesce a dare alle proprie perché si allontane. E questa mansione accessoria, definiamola così, dell'affetto è naturalmente piuttosto gravosa e da quantificare e da valutare e da retribuire, ma soprattutto da concedere. Eppure c'è questa aspettativa, nel senso che ormai sempre di più, anche secondo quel questionario dell'ACLI, perché è l'unico dato che analizza, pensate che segmento economico sia, stiamo parlando di 1,5 milioni di lavoratrici sulle quali non esiste nulla, cioè non si sa nulla. Il 60% di queste lavoratrici si occupa non solo dell'assistenza, ma lo fa da sola, cioè a persone che a volte hanno gravi problemi psicofisici e che altrove, all'estero, sono assistite da un team che va dallo psicologo al fisioterapista all'infermiere. La badante italiana, la lavoratrice addetta alla cura della persona, deve da sola, oltre a tenere in ordine la casa, stirare, cucinare, prendersi cura di queste persone e a volte pagare le bollette, andare dal medico, controllare scadenze di alimenti e farmaci, somministrare medicinali, insomma tutte competenze altamente specifiche. Lei che studia anche i modelli stranieri, altrove naturalmente si è organizzati in modo diverso, professoressa Calabrò. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Professoressa Calabro, ci stavamo chiedendo sulla modalità dell'assistenza alla persona, tra l'altro in nazioni come la nostra, in cui la percentuale, il segmento di popolazione che invecchia è destinato a crescere sempre di più, è gestita e coordinata in maniera completamente diversa fuori dall'Italia. Qual è un paese da cui potremmo mutuare delle buone pratiche? Io volevo prima però darle due dati, perché è uscito appena un rapporto del 2014 del Censis, e questo ci dà l'idea della diversità dell'Italia rispetto agli altri paesi. Beh, intanto il Censis censisce 963.000 collaboratori domestici per attività di quelli di assistenza, quindi quelli, diciamo, che non sono clandestini, che hanno regolari contratti di lavoro. Quindi se ci mettiamo tutti gli altri arriviamo ai dati poi che ha dato il sindacato, più o meno. Però la cosa interessante è notare che tra il 2007 e il 2012 è rimasta invariata la spesa della sanità pubblica, mentre è aumentata in maniera vertiginosa la spesa delle famiglie, di tasca propria delle famiglie. Stiamo parlando nel 2013 di 26,9 milioni di euro che le famiglie italiane spendono per sopperire una mancanza di servizi da parte sistemica, di questa. Chiaro, chiarissimo. Qual è un paese a cui ispirarsi in un minuto? Oltre il confine basta per esempio la Francia, che è un paese che invece è capace di rispondere a tutta una serie di esigenze, tant'è che per esempio i tassi di natalità francesi sono molto più alti di quelli italiani, proprio perché le madri riescono, le famiglie riescono ad avere un supporto da parte del welfare pubblico significativo. Noi il fenomeno delle cosiddette badanti, ripeto, lo dico con virgolette perché dovremmo proprio eliminarlo questo termine, è prettamente italiano. Proprio infatti è intraducibile anche come termine. Perché proprio c'è una carenza. E in Francia cosa si fa? Con i voucher? Ma adesso io francamente esattamente non ho studiato il caso francese, però ripeto, le posso dire che in Italia siamo l'unico paese che abbiamo questo fenomeno in termini così ingenti, tenuto conto che poi stiamo andando, come diceva giustamente lei, di fronte a un invecchiamento della popolazione. Tenga conto che le previsioni ci danno intorno al 2056 il 33% della popolazione anziana, quindi sono dati spaventosi. Grazie alla professoressa Calabro. L'avete sentita, è sociologa, direttrice del master di primo livello in immigrazione, genere e modelli familiari all'Università di Pavia. Diamo la parola anche a voi perché siete tanti, volete parlare. 800 24 00 24. Ugo, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Dica, da dove chiama? Io chiamo da Bolzano. Sì, dica. Volevo dire che nel momento in cui analizziamo questi fenomeni, analizziamo sempre solo quella che è la nostra parte, quindi la ricerca, ahimè per noi, di manovalanza a basso costo, detto col massimo rispetto di chi viene qui a svolgere questi lavori. Dall'altra parte però c'è un preciso investimento sul proprio futuro, nel senso, le persone che vengono qui da noi a svolgere queste mansioni a 800-850 euro al mese sono persone che nel loro paese hanno redditi medi intorno ai 150 euro al mese. Io sfido buona parte dei laureati nostri che non trovano qui lavoro, se avessero la possibilità di andare in qualche parte del mondo non troppo remota come per questi che vengono da noi, a svolgere queste mansioni a 8.000-8.500 euro al mese. Ci sarebbe la fila di persone partenti. Io sono andata. Allora le dico, una badante su tre è andata all'università ottenendo la laurea nel 21,2% dei casi. Il problema qua è legato, e l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, al ricongiungimento familiare, poi, cioè al lasciarsi, quando persone come noi italiani emigriamo, per esempio oggi una volta non era così, nascondavamo anche noi i bambini negli armadi in Svizzera, tanti film ce lo raccontano, ma oggi ci spostiamo senza che ci venga richiesta quell'amputazione, perché di fatto lo è, emotiva e con delle conseguenze psicofisiche molto gravose, che è quella di lasciarsi dietro la famiglia. Questa è la questione. Certo, noi possiamo calcolare che in Ucraina 800 euro al mese ti fanno acquistare una casa in 5 anni, però intanto in Italia non ti permettono di prendere l'appartamento dove tu puoi vivere con i tuoi figli, quindi non dimentichiamoli questi aspetti. Silvia Dumitrache, buongiorno. Buongiorno, grazie, salve a tutti. Silvia Dumitrache è presidente dell'Associazione Donne Romene in Italia e si trova in Romania. Perché lei si trova in Romania in questo momento? Cosa sta facendo? Stiamo facendo insieme ad un giornalista finlandese, Antonio Bocchi, e una giornalista dalla televisione nazionale romena, Elena Dinu, un reportage sugli orfani bianchi. Sono venuta a conoscere i bambini che mi hanno mandato dei disegni e messaggi per le loro mamme. Quanti sono i bambini che in Romania vivono senza la mamma? Un dato ufficiale parla di 80 circa 80.000 bimbi. Un altro dato, perché anche il Ministero del Lavoro dice che sono 3-4 volte più, cioè intorno a 250-300.000 bimbi. E lei li ha incontrati? Cosa le raccontano nelle scuole? Cosa state filmando con questi bambini? Innanzitutto mi sembrava interessante di far sentire anche questi bambini, perché loro mi hanno mandato dei messaggi che le loro mamme non hanno ricevute, no? Per esempio uno di loro che ho incontrato ieri non sapeva neanche dove la mamma fosse. È un dramma per questi bambini, perché loro sono generosi, buoni, stanno aspettando, è un'attesa infinita che li sta ammazzando. Non si ricordano, per esempio, alla domanda cosa ti ha portato la mamma per Natale, non si ricordano, perché in realtà il regalo più importante che loro desiderano è di avere i genitori accanto. Però ha sentito anche l'ascoltatore che ha dato voce a un sentimento molto diffuso in Italia. Dicono, beh certo, però voi venite in Italia a lavorare 800 euro al mese, 850 euro al mese, più o meno questo è lo stipendio, quindi fate un investimento per il futuro, perché poi il potere d'acquisto degli euro che riuscite a rimandare nel paese d'origine permette a questi bambini un futuro. Cosa risponde? Ma magari fosse così, in realtà se la donna fosse informata nel paese di origine a che realtà va incontro, qual è il costo psicologico, emotivo, quando si sposta e va in un posto dove non conosce la lingua, non conosce la gente, non conosce il lavoro, questo non è un lavoro. In realtà nessuno ti può dire cosa dovrebbe fare una badante, no, cioè loro vengono per fare un lavoro 6-8 ore al giorno, in realtà lavorano 24 su 24. Vorrei vedere il vostro ascoltatore che è intervenuto prima, se lui potrebbe lavorare 24 su 24, mai uscire di casa, a volte senza dormire di notte, perché un malato sta male non solo di giorno ma sta male di notte anche, la famiglia ha tutt'altro da fare, purtroppo troppo tutt'altro da fare, lascia tutta il lavoro da fare, tutta il lavoro di casa, andare dal medico, farmaci, ricette, banca, spesa eccetera, sulle spalle di una badante che poco man mano si ammala, perché non ha contatto con nessuno, non ci sono spazi di socializzare, non può parlare con nessuno. No, certo, ci sono situazioni disumano, più è disumano. Ci sono situazioni più fortunate in cui questa fotografia che lei ha dato non si verifica, e situazioni in cui invece è esattamente così, magari nel piccolo centro. Comunque è lasciato al caso, non solo alla discrezione della famiglia, che spesso è ottima e dà un'accoglienza, come dire, quasi affettuosa alla lavoratrice che si prende in casa, ma è ancora una volta, come spesso in Italia, a discrezione, libero arbitrio, non è regolamentato dal punto di vista del sistema. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Nove sei minuti, ricominciamo con spunti di vista. Salutiamo Paolo Corleoni, che si è avvicendato alla regia con Peter Bescapè per quest'ultimo segmento. Saremo insieme fino alle 10. Un saluto anche da Irene Zerbini. Stiamo per affrontare il tema scuole. Sono moltissimi i vostri contributi. Devo dire che fareste la scuola migliore che esiste sul pianeta, eccezionale la creatività degli ascoltatori. 349 238 6666, continuate con gli sms e tra poco prenderemo anche le telefonate. 800 24 00 24. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, che entusiasmo, meraviglia, grazie. Sempre sono entusiasta perché io faccio il badante. Bene, bene, ci dica allora, fa il badante, vive, è un co-residente o abita a casa sua lei, Daniele? No, io vado a fare il badante in una casa di riposo a delle signore che conoscevo, che sono sole. Lo faccio gratuitamente, sono criticato naturalmente perché rubo il lavoro agli altri, no? Ah, è però, criticato in quanto volontario. Sì, però volevo intervenire sul fatto che in Italia non è tutto così drastico, perché ho vissuto l'esperienza da piccolo, da bambino, che sono andato via da casa a 10 anni, ero un bambino, perciò anche in Italia i bambini erano tante volte senza genitori. Scusi Daniele, un attimo, ci aiuti a capire in che senso lei è andato via da casa a 10 anni? In casa mia eravamo in tanti fratelli, mio papà non poteva dar da mangiare a tutti e di conseguenza sono andato a lavorare dove facevo 12 o 13 ore di notte. Cos'è che faceva a 10 anni? Facevo il fornaio dall'1 di notte alle 3 del pomeriggio ed avevo 10 anni e mezzo. Ed era un assistente, come dire, era un garzone di forneria, un apprendista. Fa di tutto, perché mi facevano fare il fornaio, mi facevano fare la cameriera, ho imparato a fare tutto, fino a 14 anni. E poi cosa è successo a 14 anni? È successo che mi sono un po' risvegliato, ho chiesto un contributo e loro mi hanno portato a casa, finito il lavoro, caricandomi nel cortile dicendo a mio papà che non avevano più bisogno di me. Insomma, una generosa riconoscenza. Daniele, grazie per questa testimonianza. Come avete sentito, l'entusiasmo e l'esperienza di Daniele che ci ha riportato in un'Italia che fino a poco tempo fa era molto, come dire, abituata anche al lavoro minorile, più che minorile al lavoro proprio dei bambini, che dovevano in quel modo aiutare la famiglia. Già il fatto di non doverli alimentare era un sostegno. Daniele ci ha raccontato anche della sua posizione di volontario in una casa di riposo, ma questo non ha nulla a che vedere con il tipo di lavoro del badante, definito così tra virgolette, che stiamo raccontando oggi. Saluto e ringrazio Raffaella Maioni, buongiorno, responsabile nazionale di Acli Colf. Raffaella, cosa resta da fare in Italia? Adesso, dato per scontato che in molti casi il rapporto tra collaboratrice domestica coabitante e famiglia è anche positivo, ci sono famiglie che al di là dello stipendio dichiarato e dovuto addirittura arrotondano, si prendono cura anche in maniera affettiva di quelle persone che vivono con loro, ma qual è la situazione generale che voi dell'ACLI avete fotografato? Sì, se devo essere proprio sintetica, in poche parole, sicuramente dare un sostegno maggiore alle famiglie che hanno persone da assistere in casa, visto che in questo momento a causa anche dei tagli alla sanità e ai tagli al sistema sociale molte famiglie sono costrette appunto a tenere i propri anziani in casa, e questo anche è un dato positivo. Però allora, se questa è la via, bisogna cercare di aumentare ad esempio le detrazioni fiscali, quindi togliendo totalmente il costo del lavoro di assistenza alla persona a carico delle famiglie attraverso una detrazione totale del costo del lavoro, che è una proposta che noi facciamo. Questo ovviamente determinerebbe anche un aumento di quella che è la regolarità del settore, perché purtroppo molte di queste donne, di queste lavoratrici, che in maggior parte abbiamo visto dei dati, sono straniere, lo sappiamo benissimo, uno dei problemi è che vi è una irregolarità dal punto di vista contrattuale e dal punto di vista della contribuzione, e questo poi andrebbe naturalmente a danneggiare la situazione anche pensionistica di queste donne, che comunque stanno vivendo e invecchieranno anche loro nel nostro paese. E questo, tutta questa tematica deve essere portata a una maggiore conoscenza e anche offrire un investimento. Voi prima parlavate della scuola, proprio nella scuola, nella formazione, non solamente delle lavoratrici in modo tale che questa diventi veramente una professione riconosciuta come le altre, ma investire inserire nella nostra scuola pensando anche a un'educazione sociale, un'educazione che faccia in modo che tutti i lavori vengano riconosciuti allo stesso modo e che non ci siano lavori di serie A, lavori di serie B. È chiaro, Raffaella Maioni, un esempio a cui guardare, c'è stato citato tante volte quello della Francia, cosa succede in Francia? Nella Francia c'è questo sistema dei voucher, ovvero sono dei voucher, quindi delle contribuzioni che vengono date alle famiglie in ticket, come ad esempio i ticket dei rimborsi che vengono fatti per acquistare prestazioni lavorative. Anche in Italia si sta pensando, attraverso la riforma anche del terzo settore, di introdurre questi voucher che andrebbero assegnati o alle famiglie oppure anche alle aziende che hanno dipendenti, che hanno delle persone, hanno varie esigenze, ad esempio di cura dei figli, di cura dei genitori. Potrebbe essere dunque dei benefit. A patto che, è una cosa importante, le famiglie non vengono lasciate nuovamente da sole a gestire il welfare. Esatto. grazie a Raffaella Maioni. C'è un altro elemento in Francia molto importante, che è quello dell'arbitrato, cioè non solo c'è la formazione della famiglia e della persona che vi andrà a lavorare, ma addirittura una persona terza che valuta nel caso di conflitto, nel caso non si sia d'accordo su una certa procedura che la persona che lavora in casa ha adottato, che valuta chi ha ragione, diciamo così. E salutiamo ancora una volta Silvia Dumitrache, presidente dell'associazione Donne Rumene. Per chiudere questa pagina vogliamo raccontare questo progetto che si chiama La Mamma Ti Vuole Bene. È un programma per aiutare le donne che lavorano all'estero. Di cosa si tratta, Silvia? Si tratta di mettere in comunicazione positiva i bambini con le mamme e genitori all'estero, al lavoro, via Skype o in modo gratuito. E lo state realizzando grazie anche alla collaborazione delle biblioteche in Italia e in Romania, così che bambini e genitori possano rimanere in costante più sistematico. Grazie per questa tua testimonianza, naturalmente, Silvia Dumitrache. E ci segnalano anche un libro eccezionale, la tematica è sempre questa: può una madre abbandonare i figli ed emigrare sola in un paese straniero? Di questo si tratta. È necessità, è disperazione, è fuga dalla violenza, a volte desiderio di aiutare la famiglia. Comunque, motivi come questi hanno costretto migliaia di donne a lasciare il loro paese e a stare in Occidente. Una di loro, che faceva la giornalista, Lilia Bicec, e che invece si è appunto è diventata una badante, come vengono definite adesso con questa terminologia in Italia, ha deciso di scrivere un po' per curare la solitudine, ma per spiegare ai figli perché li ha lasciati e perché ha dovuto vivere in una nuova terra per anni, un po' una nostalgia, un po' un desiderio di rivederla. Un film molto toccante, un libro molto toccante, si intitola Miei cari figli, vi scrivo, e l'autrice è Lila Bicec. E abbiamo parlato oggi dunque di donne che lasciano i figli per lavorare in Italia, dei bambini che si sono tolti la vita in Romania e del fenomeno degli orfani bianchi. Per approfondire questo tema scriveteci pure a spuntidivista@radio24.it. Cambiamo pagina ora completamente, perché ci dedichiamo al mondo della scuola. La riforma l'avete fatta voi, di fatto potete partecipare all'800 24 00 24, ma è incredibile la quantità di materie che ci state segnalando. Vi abbiamo chiesto infatti cosa introdurreste nella scuola. Pino ci scrive la logica, e questo è molto importante per il nostro ascoltatore di Perugia. Studio e della storia delle religioni, non religione cattolica ma storia della religione, in qualche modo è già fatto a questo punto. Poi meglio potenziare l'insegnamento dell'italiano, e Rosi da Bari ci segnala che andrebbe insegnato come imparare, cioè una materia che si chiami metodo di apprendimento. C'è poi Francesco, che è polemico verso tutti coloro che ci segnalano l'educazione civica. Perché vogliono che l'educazione civica venga insegnata a scuola quando è un dovere dei genitori trasmetterla? tantissimi comunque la segnalano come una necessità imprescindibile: educazione civica, comunicazione e arti visive. E Sabina invece parla di un'ora di silenzio alla settimana per insegnare la pace e l'ascolto interiore. Molto creativi. Fin dall'asilo, dice un altro messaggio, educazione all'alimentazione. E poi da Ancona dicono sia necessario prendere dimestichezza con la politica e la storia della politica, e meno nozionismo e più logica. La scienza, grande assente in un paese privo di cultura scientifica. Questo viene da Gianluca di Treviso. E dunque, mentre il 29 agosto si attendono quelle che saranno le linee definitive di questa riforma della scuola, ieri alcune anticipazioni dal ministro Giannini: si aboliranno le supplenze e soprattutto si introdurrà il merito per quel che riguarda i docenti. Noi stiamo provando oggi a capire cosa sarebbe importante per voi ascoltatori. E sentiamola dunque il ministro Stefania Giannini. Io sono una convinta sostenitrice della cultura del merito contro le tante retoriche del merito. Però di merito si deve intendere la vera accezione, la prima accezione, quella dell'azione da cui può derivare premio o castigo e che è di per sé sostanza della scuola. Me lo credevano prima i giornalisti, ma in questo provvedimento per la scuola del 29 ci sarà la voce merito. Beh, non è una voce che si scrive in un provvedimento di legge, è l'insieme, è la visione che mette la valutazione, che mette una serie di elementi ancora estranei in certi sensi alla scuola italiana al centro. Non è forse un caso che nel 2015 tutte le scuole italiane pubblicheranno la loro valutazione, il loro rapporto di valutazione, perché da lì siamo partiti e su questo continueremo a procedere con molta determinazione. Professor Rembado, buongiorno. Buongiorno. Lei è un professore particolare perché è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Allora, va introdotto il merito e un metro di valutazione per i vostri insegnanti. È stato segnalato con molta enfasi. Qual è la sua valutazione di questa guida che così è stata tracciata ieri sulla riforma della scuola? Io mi auguro che questo possa realizzarsi. Di merito e di questioni analoghe si parla da molto tempo nell'ambito del dibattito dedicato ai temi della politica scolastica, e anche se ne parla in termini di necessità di una modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. Facciamo un esempio. Noi oggi abbiamo i docenti che tutti quanti, da quando entrano in ruolo fino all'età del pensionamento, sono trattati allo stesso modo. Diciamo che entrano come soldati semplici e finiscono anche la loro carriera professionale come soldati semplici. Non c'è dubbio. Semplificare, professor Rembado. Senza dubbio. No, sì. La metafora è corretta e tra l'altro questo fa sì che ci siano due grossi limiti a questa organizzazione arcaica della scuola. La prima è che non c'è il riconoscimento delle professionalità che crescono e che crescono in maniera spesso anche diseguale a seconda delle circostanze esterne e delle capacità dei singoli. Ma dall'altro lato non si riconosce la necessità delle scuole, che sono sempre più complesse, sono sempre più difficili da gestire, di avere un corpo di managerialità intermedio fra il dirigente, il preside e la docenza e i rapporti col mondo esterno, mentre di questo corpo intermedio di collaborazione. Io la invito a una cosa, professore, è validissimo probabilmente quello di cui lei sta parlando, ma visto che non stiamo scrivendo un articolo su una rivista sindacale. Cerchiamo di parlare invece di contenuti, di didattica per quel che riguarda anche poi la resa, la possibilità per voi docenti di realizzare, per i docenti e per i presidi naturalmente, di realizzare quanto indicato. Cioè il corpo manageriale chiaramente in qualche modo sancirebbe un principio di autonomia maggiore per le scuole e per gli istituti. E tante volte si parla di dibattiti, si parla di sommatorie di discipline, si parla di singole discipline. Lei è uno di quelli che nel mondo della scuola vorrebbe aumentare, per esempio, il calendario scolastico, le ore di insegnamento. Non si può far crescere tutto, ha dichiarato, se non portando a 40 ore le lezioni settimanali. No, qui bisogna... O era polemico la sua... E bisogna chiarirsi meglio, anche lei prima, recependo tutta una serie di proposte da parte degli ascoltatori, ha avviato un primo lungo elenco di discipline mancanti o di... Desiderata, diciamo. Desiderata, insomma, dalla logica alla storia delle religioni, sì, all'educazione civica, alla comunicazione. Pensiero logico. Fino all'ora di silenzio. Questa la trovo la più interessante di tutte, ma insomma comunque... Cominciamo da adesso. Non voglio esagerare, insomma, nella provocazione. No, dicevo che bisogna stare attenti a far sì che non ci sia una sommatoria indiscriminata delle discipline. Questo è un errore dal quale proveniamo. Nella vecchia scuola si arrivava fino a 40, in alcuni indirizzi di studio, si arrivava fino a 40 ore di lezione. Ah, quindi secondo lei non è quella la strada da seguire, non era polemico il suo riferimento. Certo, è vero il contrario, che bisogna dare la possibilità alle scuole di fare delle scelte, di fare una selezione, di costruire un indirizzo insegnamento apprendimento, un indirizzo di studi che sia costruito coerentemente intorno a un asse culturale ben preciso. Perfetto. Quindi, ieri l'asse culturale tracciato dal ministro Stefania Giannini passava anche dal punto della valutazione del merito degli insegnanti, come a dire, la responsabilità dei docenti meritevoli che seguiranno corsi di formazione più di altri eccetera deve essere riconosciuta anche dal punto di vista salariale. Questo principio come lo valuta? È sacrosanto ed è molto difficile da far inserire, introdurre nell'ambito dell'organizzazione del lavoro della scuola. Comunque è un principio che, qualora passasse, con tutte le sue articolazioni e conseguenze, cambierebbe sostanzialmente il volto della scuola in termini di maggiore qualità del servizio. Perché è chiaro che si può chiedere a tutti un continuo miglioramento, si può e si deve, lo si fa ovviamente, ma ci vogliono anche strumenti incentivanti che possono andare e dalla introduzione di una vera e propria carriera di cui abbiamo appena accennato all'inizio, ma anche a incentivazioni salariali che non sono assolutamente secondarie, anzi che rappresentano un atto di giustizia da un certo punto di vista e uno strumento per crescere complessivamente nella prestazione professionale dei docenti. Quindi imprescindibile, chiaro, però il principio è ben accolto da voi, associazione degli 8.000 presidi, questo è importante da sottolineare. Lo diciamo da 25 anni. Grazie a Giorgio Rembado. Roberto, buongiorno, pronto? Buongiorno. Da dove chiama lei? Io chiamo da Venezia, da Mestre. Sì, Mestre dica, Venezia. Dica. Se può spegnere la radio perché c'è un eco. L'ho spenta. Dica. Non ho la radio accesa, ecco. Suggerisca. Allora, sì, suggerisco una cosa che diceva Galileo Galilei, che non può insegnare una cosa a un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprirla dentro di sé. Nella scuola si insegnano molte cose, leggere, scrivere, far di conto, ma non si insegna a comunicare e tantomeno l'educazione all'ascolto. Ne abbiamo esempi tutti i giorni alla nostra televisione, dove tutti parlano e nessuno ascolta. E direi anche un'altra cosa che ritengo molto importante, cioè che non è importante ciò che si dice, ma come lo si dice. E questa cosa va insegnata, perché non è così. Mentre il nostro cervello riesce a quasi spesso, quasi sempre, ma non sempre, a elaborare le parole che dobbiamo dire, la comunicazione, la maggior parte della comunicazione è inconscia, perché usiamo la gestualità senza pensarci e usiamo il tono della voce, le cose, ecco, queste sono. Quindi cose lei insegnerebbe che... questa materia, cioè comunicare, sì, sì. Ma lei che lavoro fa nella vita, scusi Roberto? Insegno l'arte del comunicare, per quello che mi sono permesso di... E dove la insegna? L'insegno presso l'Università Popolare, perché io ho insegnato tanti anni questa materia e siccome adesso non ho più 20 anni, ne ho qualcuno di più, mi dedico all'Università Popolare, che è un'università qui di Mestre, che insegna un sacco di materie interessanti, ecco, e quindi io mi dedico già da una ventina d'anni. Che bella Italia che esce dalle vostre telefonate. Grazie a Roberto. 800 24 00 24. Federica, buongiorno, pronto? Buongiorno, pronto, complimenti. Buongiorno, lei da dove chiama? Fantastica. Da Perugia. Sì, e cosa insegnerebbe? Allora, io sono di parte perché insegno arte immagine e discipline laboratoriali, quindi adesso non sto a farla tanta lunga, ci sarebbe tanto da parlare, ma sicuramente insegnerei più arte applicata. Noi siamo una nazione estremamente ricca di ogni ben di Dio, come si suol dire, in fatto di arte, scultura, architettura, pittura. Quindi lei capisce che con 2 ore la settimana cosa mai si può fare di arte. Cioè lei dunque allargherebbe questo campo, la cultura artistica, ma cambierebbe anche il metodo di insegnamento? Ma guardi, i metodi in arte sono, per quello che mi concerne, ma credo anche per la maggior parte delle colleghe, sono molto creativi. Noi facciamo sperimentare di tutto e di più ai ragazzi, se fosse possibile però naturalmente un laboratorio, perché alle medie per esempio non c'è solo alle superiori e neanche sempre. Quindi i ragazzi vogliono, te lo chiedono proprio loro, vogliono sperimentare con le mani, creare, fare diciamo le loro piccole opere d'arte. Quindi, ottimo contributo, grazie a Federica da Perugia. Buongiorno anche a Stefano, pronto? Pronto, buongiorno. Stefano, buongiorno. Lei invece da dove chiama? Da Bergamo. Il suo contributo cosa inserirebbe come materia nella scuola? Vorrei proporre di aumentare l'importanza dell'attività, della cultura sportiva all'interno della scuola, che già trova il suo spazio, ma secondo me è troppo limitato e che spesso costringe gli studenti alla scelta tra perseguire le proprie attitudini in tipo sportivo, trascurando purtroppo un po' la scuola, oppure esattamente il contrario. Come invece del resto accade in altre nazioni, in altri paesi, come esempio gli Stati Uniti. Ma lei parla di sport o di cultura sportiva? Perché lei ha detto cultura sportiva, cioè cosa intende per cultura? Sia cultura che attività, nel senso lo intendo proprio come attività sportiva, ma lo definisco cultura, nel senso che mi piacerebbe fosse inserito in maniera più integrata all'interno della scuola e non lasciato all'iniziativa privata, come invece spesso accade in Italia, insomma. Grazie Stefano anche per questo stimolo. Noi ora andiamo all'Ocse, proprio così, perché dall'Ocse partono delle linee guida importantissime in materia di istruzione, poi perché dall'Ocse si osservano diversi panorami e non solo quello italiano. Buongiorno Francesca Borgonovi. Buongiorno. Che ci è in collegamento con noi da Parigi per spiegarci, cioè più che per spiegarci, per commentare con noi un po' questi stimoli che sono arrivati dagli ascoltatori, dall'ora di silenzio alla scienza grande assente in un paese privo di cultura scientifica, all'arte, allo sport. Certo, aveva ragione il responsabile di tutti i prestiti italiani, andando avanti così servirebbero 40 ore alla settimana per soddisfare tutte gli input che ci sono arrivati. Io ora mi fermo con lei su un altro aspetto della scuola, cioè la valutazione degli allievi, la votazione. Cos'ha l'Italia dal punto di vista delle valutazioni, dei voti, da migliorare? Noi abbiamo fatto uno studio dove, prima di tutto all'OCSE una delle cose che facciamo è lo studio PISA. PISA sta per Program for International Student Assessment, e sostanzialmente andiamo a valutare le competenze in matematica, comprensione di test e competenze scientifiche in più di 60 paesi al mondo su un test standardizzato. Quindi andiamo a valutare quanto bravi o meno bravi sono gli studenti, 15 anni, quindi a un'età comune attraverso i paesi, su un test comune. Questo è importante perché chiaramente... Quanti paesi ha detto, scusi dottoressa Borgonovi? 65, per cui sono tutti i paesi all'OCSE più moltissimi paesi al di fuori dell'area OCSE, sia paesi in via di sviluppo che non. E quello che siamo andati a vedere è che le competenze dei ragazzi variano in maniera grandissima tra paesi, quindi a meno che non noi pensiamo che l'abilità innata degli studenti sia differente tra varie aree del mondo. È chiaro che questo ha a che vedere con la scuola, è chiaro. Ha a che vedere con la scuola, per cui anche paesi molto vicini come la Svezia e la Finlandia hanno dei risultati molto molto diversi. Quindi la scuola è molto importante, la scuola ma anche la società, perché non si impara solamente a scuola. E quello che noi siamo andati a vedere è quanto la valutazione in questo test standardizzato è associata ai voti che gli studenti ricevono nelle varie materie. Mi scusi se semplifico, posso? Cioè uno studente da 7 in Italia potrebbe meritare un 9 in Germania, per esempio, e secondo il vostro, secondo la distribuzione dei voti nei vari paesi che voi prendete in esame, essere uno studente da 6 o da 5. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. È chiaro che la scuola è un tema che riguarda tutti, non solo in quanto studenti, in quanto genitori, in quanto allievi, ma perché il prodotto poi di un paese, il sistema paese, si misura e si crea soprattutto su quei banchi lì. Anche dei banchi bisognerebbe parlare, perché alcuni ci suggeriscono basta lezioni frontali, bisognerebbe proprio riformare l'apprendimento, la pedagogia. Di scuola stiamo parlando. Buongiorno da Irene Zerbini, sono le 9:35, sono tantissimi i contributi che ci state dando sulle materie da insegnare, da introdurre, se si potesse chiaramente avere la possibilità. Educazione civica continua a svettare in cima alla classifica, anche se poi si è aggiunta educazione alimentare, etica, e la scuola deve anche insegnare il rispetto sostanzialmente per l'altro sesso. Questo si declina in lezioni di educazione all'amore, alla relazione, e insegnare psicologia, ci dice un altro ascoltatore, dai 14 anni a tutti. 349-238-6666 per i vostri suggerimenti. Vogliamo capire che tipo di valutazioni ci sono in Italia. Questo perché? Perché è stato detto che dovrebbero essere eliminate le bocciature, perché non beneficiano i ragazzi, questo secondo studi dell'OCSE di cui abbiamo già parlato in una precedente trasmissione, e non vogliamo entrarci di nuovo, altrimenti si apre una deriva che non finisce più. Ma recentemente si è appreso che con i voti che si danno nelle scuole superiori, nei licei italiani, che sono piuttosto strettini rispetto ad altri, non si va nelle università in Europa. Cioè quando si chiede un 9, un 10 per l'ammissione, si parla di matematica per esempio per alcune università inglesi, i 9 e i 10 in Italia anche a studenti eccellenti a volte non si danno. Francesca Borgonovi dell'OCSE, scusi la linea non ha retto, ma stavamo parlando delle valutazioni. Voi avete fatto questo studio trasversale su questi 65 paesi. In sostanza, i voti che si danno in Italia come sono rispetto agli altri? Sono un po' più strettini, nel senso che si tende a utilizzare in Italia molto, come si dice, la parte negativa dei voti, per cui i voti sotto al 6, i voti, le insufficienze, ma non si tende a dare i voti in un certo senso nella parte alta della distribuzione, per cui il 5% degli studenti più bravi in Italia è solo quello che ha un voto che è sopra il 7 o sopra l'8, mentre in altri paesi questo non avviene, quindi si tende ad utilizzare molto di più tutti i voti che sono disponibili nella parte positiva del voto. E come si potrebbe fare, dottoressa Borgonovi, per introdurre un sistema, come dire, che non penalizzi gli studenti italiani, cioè standard che renda omogenea la valutazione, per esempio al momento della richiesta d'ingresso in un'università europea? Ma secondo me ci possono essere, cioè, la soluzione più semplice è semplicemente dare, accompagnando la valutazione in termini di voto assoluto, quindi un 7, un 8, un 9, dove si pone questo studente nella distribuzione degli studenti nella scuola. Questo avviene molto in paesi stranieri, per cui si può dire questo ragazzo ha un 8, in realtà è nel primo percentile, è chiaro, appartiene al 5%. Approfitto della sua presenza per farle prendere in esame un altro aspetto. Ieri il ministro dell'istruzione Stefania Giannini ha parlato di portare a 4 anni il ciclo delle medie superiori, questo per equiparare le in cui anche gli italiani, cioè, si congedano dalla scuola dell'obbligo, perché in altri paesi è già così. Quali sono i paesi in cui il liceo, la scuola superiore, dura 4 anni? Sono la maggioranza? Beh, in realtà ci sono molti sistemi diversi, per cui anche semplicemente prima un ascoltatore parlava del sistema francese, non in ambito scolastico ma in un altro ambito. In realtà in Francia ci sono 4 anni di medie, 5 anni di scuola primaria, 4 di medie e 3 di superiori, per cui i sistemi variano molto. Il problema è quello che si impara quando si è a scuola e quanto si impara quando si è a scuola. Secondo me la riforma dei cicli può andare. In alcuni paesi hanno aumentato il numero di anni della scuola secondaria inferiore, per cui le medie, perché si è visto che dilazionare il più possibile la scelta di indirizzo in realtà favorisce molto gli studenti con, tra virgolette, scarse capacità o che in realtà tendono ad avere poche aspettative e non vogliono studiare tanto, in un certo senso. Quindi paesi come la Polonia hanno dilazionato la scelta di un indirizzo scolastico e questo ha aumentato come si dice, le competenze, particolarmente nella fascia bassa delle competenze. Chiaro, grazie mille a Francesca Borgonovi. Uno degli aspetti naturalmente importantissimi di ogni riforma che tocca la scuola, anche ieri è stato toccato, è quello che riguarda il colloquio, il dialogo, definiamolo così, tra sistema scuola e sistema lavoro. E proprio su questo l'Università LUISS ha curato l'ottavo rapporto Generare classe dirigente, dalla quale ha sviluppato una proposta di rinnovamento del sistema formativo scuola-università. Attenzione, non è una proposta di quelle così astratte, piene di buoni intenti, ma che genererebbe subito una riduzione di almeno 5 punti percentuali del tasso di disoccupazione giovanile e un aumento del reddito pro capite tra 1.500 e 2.500 euro di questi giovani coinvolti. Ma per parlarne c'è con noi il vicepresidente esecutivo dell'Università LUISS, Luigi Serra. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per il suo tempo. Grazie a voi. E di che si tratta? Ma guardi, come lei ha detto poco fa, gli studi, i rapporti, le analisi sul mondo della scuola e sul lavoro sono non soltanto utili, sono necessari, però vanno anche declinati sotto il profilo della praticità, sotto il profilo delle ricadute possibili, quindi dell'utilità per il Paese nel suo complesso. E quello che ci siamo sforzati di fare come LUISS e come fondi dirigenti, che collaborano da tempo al rapporto sulla classe dirigente, perché questa edizione non fosse un tomo astratto e ponderoso di dati, ma avesse un focus molto preciso sulla scuola, tra l'altro, tra virgolette, su quel particolare tipo di classe dirigente che è formato spontaneamente da insegnanti, docenti, presidi, e sul momento delicatissimo e cruciale del passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro. Che dovrebbe essere fluido. Faccio una precisazione, Luigi Serra. Quando si parla di classe dirigente, nell'immaginario collettivo tutti si immaginano l'uomo in doppio petto con la camicia bianca, purtroppo quello è questo, è quanto abbiamo offerto finora. E gli studenti della LUISS che sono già impegnati in questo progetto stanno lavorando nel volontariato, nelle periferie romane, stanno lavorando con Libera, cioè su quei beni, per la riqualificazione di quei beni confiscati alla mafia, quindi lavori socialmente non solo utili, preziosi. Ma vede, questa è una nostra convinzione, cioè che il profilo dello studente che alla fine noi liberiamo con una formazione, no, non debba essere monodimensionale, ma debba essere a 360 gradi, deve essere in 3D per intenderci, cioè deve avere sviluppato anche un suo contatto con la realtà, con gli aspetti anche se vogliamo etici e valoriali della realtà, che lo renda una persona compiuta in grado di inserirsi facilmente o comunque con meno difficoltà in un mondo del lavoro che dal momento in cui lui si è iscritto a quell'università, al momento in cui ne esce, è già radicalmente cambiato, perché viviamo in quella che chiamano un momento di accelerazione storica, per cui le condizioni... Cioè lei dice in 3 anni più 2 della magistrale è cambiato tutto, per cui... È cambiato tutto, noi non possiamo prevedere all'inizio del percorso universitario la richiesta precisa del mercato dal punto di vista delle competenze al suo termine, però possiamo sapere già dall'inizio che il mercato, cioè le nostre imprese, chi ha bisogno di forza lavoro, tenderà a privilegiare quelle personalità formate a tutto tondo, perché magari hanno fatto un'utilissima esperienza di vita, si sono tra virgolette sporcate un po' le mani, hanno abbandonato un po' di alterigia, se vogliamo, da formazione iperspecializzata e si sono calati nella realtà. E questo come si crea un'università che si sporchi le mani? Faccia capire. Beh, innanzitutto con tanta passione, no? Nel senso che al di là dei programmi accademici che devono essere improntati alla più rigorosa qualità, perché poi alla fine è il merito, è la selezione che fa emergere le eccellenze, noi dobbiamo anche metterci in discussione, no? Come uomini, come docenti, come vertici. Sì, ma al di là della filosofia, in pratica cosa dovrebbe essere istituito, perché il rapporto e il momento di congiunzione tra scuola e lavoro diventi più fluido in ma pratica? Ma guardi, come le dicevo, noi cerchiamo di fare se possibile meno filosofia possibile. La pratica dice che dobbiamo rendere più permeabile il mondo dello studio, degli studenti e di chi è in formazione col mondo del lavoro, cioè favorire un passaggio anche temporaneo, un passaggio episodico. Ci sono esempi di questo genere all'estero? Quali? Beh, non vorrei esagerare con l'esterofilia, che è un malessere italiano, però se guardiamo... No, ma è giusto confrontarsi, non per disprezzare la propria realtà, che comunque è eccellente in termini di scuola. Esattamente, cerchiamo di prendere il meglio anche dalle esperienze. Un paese in questo momento un po' sulla cresta dell'onda, almeno in ambito europeo, come la Germania, sviluppa un'attrazione, per così dire, spontanea verso i migliori talenti giovanili, ahimè, da paesi come Spagna e Italia, facendo leva anche su una oggettiva maggiore facilità per gli studenti lì presenti di trovare magari non solo una formazione specializzata e strutture molto efficienti dal punto di vista dell'offerta di servizi anche universitari, ma una maggiore facilità magari di occupazione temporanea, occupazione mentre episodica. Si frequenta, cioè noi mentre non stiamo parlando di occupazione post universitaria, cioè non voglio fare un precipitato troppo, diciamo, nel personale oppure nel pratico, lo ma le posso citare un esempio. Sì. Io ho un nipote, un ragazzo meraviglioso, che studia ingegneria meccanica in un'università del centro della Germania, famosa per questo, l'università di Braunschweig. Bene, una volta arrivato, lui ha trovato facilmente, grazie ai cosiddetti mini job, che sono dei lavori per i quali non si può superare la quota di 15 ore settimanali, un lavoro che lo appassiona. Si tratta di assemblare bassi, cioè chitarre elettriche, che è il suo hobby tra virgolette, non lo diciamo distoglie dallo studio abbastanza severo che sta praticando, ma che comunque sarebbe severo come quello di una buona università italiana, precisiamo, soltanto che lui nello stesso momento, con traduzioni che fa, con questi mini job, riesce ad avere una sua autonomia importantissima anche per la gratificazione personale, per motivi pratici se vogliamo, per fare esperienza di lavoro prima di terminare la sua università, e sono sicuro che alla fine lui troverà, grazie a un certo dinamismo anche dei rapporti tra impresa e università che si riscontra soprattutto su quei mercati, in quelle società, un più facile inserimento. Esatto. Grazie, è veramente esemplificativo, io direi, questo esempio del mini job. Certo che anche in Italia si può lavorare in un bar, ma poi sei pagato in nero se ti prendono e così via. Questo è veramente istituzionalizzato. Spunti di vista. i mille aspetti dell'attualità. E stiamo cercando di far fare a voi questa riforma soprattutto della didattica della scuola. Il potenziare l'attività fisica e sportiva dei ragazzi è un tema molto sentito. Da quando l'ha lanciato il nostro ascoltatore sono molti quelli che si sono uniti alla richiesta. E noi vorremmo delle ore di educazione civica, questo l'abbiamo detto, è la cosa più richiesta. Educazione sessuale, ma questa c'è già, l'educazione anche all'affettività. C'è poi chi ci segnala l'educazione sanitaria. In Italia non sappiamo salvare la vita di una persona, mentre nel Nord America viene insegnato già ai bambini di 12 anni come fare un massaggio cardiaco. Ed è interessante che a segnalarcelo da Avellino sia un ascoltatore che di professione fa l'infermiere. Diritti e doveri, bisogna ottenere diritti e cittadini coscienti, serve a creare una società migliore, questo ce lo dice Flavio da Bollate. Economia domestica esisteva infatti una volta, non so quale materia specifica, ma sarebbe importante. Beh, questo è veramente, da Valeria che ci sta ascoltando a Buenos Aires, un suggerimento eccezionale: l'educazione al ciclo della vita, dalla nascita alla morte, anche nelle diverse culture, insegnare anche la fine della vita come evento naturale e il rispetto per gli anziani. Beh, non solo una bellissima Italia, ma bellissimi italiani, anche quelli che si trovano all'estero. Terminiamo però questo capitolo che abbiamo iniziato col professor Serra sui mini job e diamo la parola a voi che aspettate in linea 800 24 00 24. Stimoli veloci e importanti. Claudio da Roma, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Dica Claudio, scusi che la spingiamo a parlare in fretta. Sto ascoltando la vostra trasmissione e mi sembrano molto interessanti gli interventi fatti. Io volevo semplificare, nel senso vorrei dare anche la possibilità di valutazione ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, perché non sempre i professori sono all'altezza, diciamo al 90% sono all'altezza, però c'è un 10% che molto probabilmente non è all'altezza dell'insegnamento. E quindi molto semplicemente sarei dell'idea di somministrare questionari, dare un piccolo questionario molto semplice che dia la possibilità all'alunno, che sia di scuola media o di scuola media superiore, di poter esternare un suo giudizio su come l'insegnante fa piacere la materia che insegna, su come si sa spiegare, cioè su una serie di domande, di parametri che naturalmente parametri che il ragazzo esprime un giudizio, certo, ma che devono essere resi oggettivi. Non è che il ragazzo che viene punito dall'insegnante, nel senso che non studia, assolutamente no, perché è una valutazione che viene fatta dalla classe, quindi il giudizio che dalle classi quindi è un giudizio che poi alla fine è abbastanza oggettivo. Comune, oggettivo, e di conseguenza poi sarà all'istituzione scuola valutarlo e intervenire, esatto, su quell'insegnante. Grazie. Secondo me è molto molto semplice, senza andare a trovare grandi grazie Claudio. Senza dubbio questo sarebbe un contributo che serve anche da stimolo a migliorare la propria professionalità proprio agli insegnanti. Simona, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo intervenire sulla prima cosa che farei nella scuola, è senz'altro un riconoscimento economico maggiore da parte per il corpo docente, perché svolgono un lavoro fondamentale. Pari ma per tutti però, o in base al merito come è stato proposto? Io ci stavo arrivando. In base al merito è molto difficile. Io penso però che vada fatta una selezione nel caso in cui si sia acclarata la incapacità di un professore. Le parlo per esperienza personale, io ho una figlia che frequenta il liceo scientifico e ha trascorso la terza liceo con un professore di matematica assolutamente incapace, riconosciuto incapace dal preside, ma il preside stesso ha detto ho le mani legate, non posso fare nulla. Sì, ci sono questi casi, perché sono poi licenziabili i docenti, e ci sono questi casi, lei non è la prima che ce lo segnala, in effetti, e non solo in matematica, però non si può fare altro a volte che trasferirli, e quindi si rimbalza il problema di scuola in scuola. Riguardano, va detto, una minoranza degli insegnanti, in generale il giudizio sugli insegnanti italiani è di ottimo livello. Però grazie per aver aperto, come dire, per aver acceso i riflettori su un problema che esiste. Claudia, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Dica io, Claudia. L'ha detto l'ascoltatore Arellino, però una materia educazione sanitaria, perché fin da piccoli bimbi, direi già all'asilo, ma alle elementari comunque, familiarizzare con il problema del soccorso, quindi dell'interesse agli altri, quindi di costruirsi da soli una coscienza civile che poi è la educazione sanitaria. Devo purtroppo ripetere quello che lei dice, perché la linea rende quasi inascoltabile il suo intervento. Grazie comunque a Claudia, che parlava di educazione sanitaria non solo per la possibilità di soccorrere gli altri, ma per aumentare l'empatia, e questo è un altro degli elementi, degli ingredienti che tutti vorrebbero vedere introdotto nell'istruzione: l'empatia, l'educazione all'altro. Professore Serra, certo che lei lavora all'università, qui stiamo parlando di istruzione anche di gradi, come dire, inferiori, precedenti a quello che poi porterà all'Ateneo lo studente. Voi state lavorando perché venga introdotta anche in Italia la possibilità per gli studenti di mantenersi da soli, quindi di mini job strutturati, e già la vostra esperienza vi porta a creare occasioni di formazione che hanno a che fare con l'empatia. Infatti avete scelto le periferie romane, il volontariato, è un'esigenza molto sentita. Come rispondono i ragazzi quando proponete esperienze di questo tipo? Beh, rispondono con entusiasmo, perché vede, i ragazzi, noi dalle pagine del rapporto emerge con chiarezza che ha una grande importanza la motivazione degli studenti sugli stessi risultati che ottengono, sulla stessa valutazione che noi possiamo dare loro, quindi degli studenti consapevoli di fare qualche cosa in cui credono, motivati anche dall'elemento di novità o di innovazione che noi introduciamo, impegnati anche se vogliamo competitivamente a migliorarsi e a uscire dall'università con più skills, per usare un termine inflazionato, con più competenze, con più capacità possibili, bene, questi sono già pronti non per rimanere parcheggiati in una sorta di parcheggio adolescenziale all'interno dell'università, ma per scaturire fuori con forza e cercarsi un'affermazione professionale. Un'ottima sintesi di quella che dovrebbe essere il processo formativo, qualcosa in cui si crede che ci renda anche utili agli altri. Grazie a tutti voi che siete intervenuti in questa trasmissione proprio per sottolineare questi aspetti. Al 349-238-6666 scriveteci a spuntidivista@radio24.it. Saluto, riuscirà a dire forse solo una parola un maestro, è così importante la scuola elementare. Alex Corlazzoli ha scritto un libro tra l'altro bellissimo, Gita in pianura, e ha tanto da dire sulla scuola, lo sentiremo un'altra volta. Alex, hai una parola finale di questo grande discorso che oggi abbiamo fatto? Possiamo riassumerla così. Buongiorno. Buongiorno. Credo che insomma si è parlato di tutto e di più, quindi il maestro che diventa tuttologo, ma oggi non si insegna ad insegnare. Proviamo a fare un giro nelle nostre scuole e vedere che per esempio educazione civica vuol dire qualche maestro che dice per esempio, che chiede che cos'è un comma, e allora forse dobbiamo prima pensare davvero. Grazie, come grazie a Corlazzoli, e grazie in redazione a Laura Faggina, Alessandro Longoni, Lucia Tolve, da Irene Zerbini. Appuntamento a domani mattina alle 8:10.